per scaricare la versione MP3 pulita, cioè senza vocals ed effetti, andare all'indirizzo indicato sulla back cover sostituendo ai punti interrogativi il numero 8 7 4 0. La password è SSL2, tutto maiuscolo. To download the MP3 clean version without voices and effects, go to the address show on the album back cover, replacing the question marks with the numbers 8740. The password is SSL2, all in uppercase.